Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Partiamo oggi dai temi ambientali. La recente decisione tedesca di bloccare il nuovo tetto alle emissioni di CO2 per le auto prodotte in Europa ha mostrato come l'Unione di fatto sia sempre in prima fila quando si tratta di dire agli altri, di chiedere agli altri di ridurre le emissioni, ma non sia poi capace di trovare l'unità su questi temi e dunque in definitiva non sia in grado di incidere politicamente a livello internazionale. Il prossimo vertice europeo sui temi dell'ambiente e del clima è stato fissato a Varsavia per il prossimo mese e già è stata accolta questa decisione con forte scetticismo, perché la Polonia di fatto non è certo tra i paesi più progressivi su questo fronte. Ma sentiamo il servizio. Uniti per fissare politiche ambiziose per il 2013, ma divisi su come raggiungere lo scopo. Il gruppo per la crescita verde, composto da 13 ministri dell'ambiente europei, fra cui Andrea Orlando, non include però la Polonia, proprio il paese che ospiterà il vertice di metà novembre. Il ministro Beata Jacewska. Europe is known for fighting for more. È riconosciuta l'Europa, dice il ministro, la capacità di combattere per ottenere degli obiettivi che si è posta, e accadrà anche in questo caso. Più pessimista Wendel Trio, direttore di Climate Action Network Europe, una ONG dell'ambiente a livello europeo. L'Europa, dice, non ha la stessa capacità di leadership che aveva qualche tempo fa. Ci sono troppi interlocutori sulla scena e bisogna tradurre le parole in azione. Dopo il vertice di Varsavia, i prossimi appuntamenti sono per marzo, prima del summit ONU di settembre 2014, organizzato dal segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, per spianare la strada verso l'accordo globale del 2015. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo invece della Turchia, un paese che dopo vari dibattiti ha ripreso proprio recentemente le trattative per il percorso di accesso all'Unione Europea. E come sapete è anche un paese che ha completato proprio ieri una opera infrastrutturale di primaria importanza, cioè il tunnel sotto il Bosforo. I ponti ci sono già. Ecco, questa mattina qualche problema, qualche interruzione, ma insomma il servizio è partito. Di certo resta la realizzazione di un'opera emblematica anche probabilmente per il futuro percorso di Ankara verso l'Unione. Sentiamo. La Turchia ha inaugurato il primo tunnel sottomarino che congiunge due continenti, Europa ed Asia. È un sogno lungo 150 anni che si realizza sul percorso dell'antica Via della Seta, solo che in soli 4 minuti si passerà in treno dalla sponda europea a quella asiatica. Un viaggio che faranno 1,5 milioni di pendolari ogni giorno. L'opera si pensa che ridurrà del 20% il traffico automobilistico di Istanbul, uno dei più caotici al mondo. Ma c'è di più. Il premier Erdogan prevede di costruire un terzo ponte sul Bosforo, costruito dall'italiana Astaldi, un terzo aeroporto sul Mar Nero, il maggiore del mondo, un mega ospedale con 20.000 addetti, è un canale parallelo al Bosforo lungo 50 chilometri, più del canale di Suez. L'economista Keynes sarebbe felice di vedere una mole di lavori pubblici di questa dimensione e non si sorprenderebbe di sapere che la Turchia cresce più dell'Europa. In visita alla città della scienza di Napoli, la presidente del Consiglio europeo per la ricerca, Helga Novotny, incoraggia l'Italia a valorizzare le sue eccellenze. Dice: le migliori squadre di calcio attirano i migliori giocatori perché offrono un ambiente favorevole, ottimo allenamento, buone strutture. Lo stesso, dice, deve valere per la cultura, e la metafora usata appunto da Helga Novotny in visita alla città della scienza di Napoli. Con questo è tutto, l'aggiornamento con l'Europa domani intorno alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.